La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, siamo al nostro sabato al cinema, come sempre tutti i consigli, le novità in sala e non solo, per un bel weekend cinematografico e anche per qualcosa di più. Io vi ricordo subito la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e starete con noi anche tutta la settimana. Questa settimana vi abbiamo riempito di contenuti importanti, speciali, tempestivi, su tutti quello che ha fatto più click in assoluto e che continua molto molto a viaggiare. Questo la dice lunga sulla passione dei nostri appassionati ascoltatori. È il primo teaser del nuovo capitolo di Star Wars targato Disney, che sta davvero facendo furore. Grande attesa per quel film che verrà. Andiamo a vedere invece i film che ci sono, cominciando da questa come Dio champagne, possiamo dire, Magic in the Moonlight, anche se lo champagne è un po' sgasato, ma ne parliamo fra poco. Ritorna Woody Allen in sala in questo film, con nel cast Colin Firth, Ellen Atkins, Marcia Gay Harden e soprattutto la protagonista femminile del film, Emma Stone, nuova musa di Woody Allen. Siamo a Berlino nel 1928, in piena epoca, diciamo, Belle Époque. Un celebre prestigiatore che incanta tutti con i suoi numeri, con le sue magie, viene ingaggiato per cercare di capire se una donna che si sta affermando come una grande veggente medium in realtà non sia una truffatrice. Beh, sta a sentire, sono imbarazzato a dire che ho osservato questa donna all'opera da ogni angolo tante volte e non sono riuscito a trovare niente che nuova. Insomma, ho osservato ogni mossa e Dio sa se conosco ogni trucco di lettura del pensiero o sedute spiritiche, ma non ho trovato un difetto, ho scoperto una sola mossa sospetta e ho cominciato a dubitare del mio raziocinio. Ho pensato che magari lei è genuina. Non esiste niente di genuino, Howard, è tutto fasullo. E a dire queste parole proprio Stanley Crawford, il Colin Firth del film, che è sotto le vesti e il trucco di un prestigiatore cinese, pensate un po', invece rivela un'anima assolutamente occidentale, ma accetta l'incarico e va sulla Costa Azzurra, dove questa ragazza sta cercando di circuire, truffare con i suoi veri o presunti poteri medianici una ricca famiglia americana. Arriva sulla Costa Azzurra e lì c'è il primo contatto con la ragazza. Ho sentito che ci sarà una seduta dopo cena. Stava aspettando il momento giusto e ora dice che i pianeti sono in allineamento. E con che cosa dovrebbero essere in allineamento? Con le sue vertebre. Riesce a fare la seduta anche se qualcuno nella stanza è un non credente. E quando contatta gli spiriti sarà in grado di vedere le anime? E in cosa differiscono dai fantasmi? O sono fantasmi? Io direi che i fantasmi sono molto diversi. Ha mai sentito parlare di ectoplasma? Ectoplasma? Non è quella sostanza lattiginosa tipo yogurt? Ecco, quello che succede è anche abbastanza immaginabile. Da una parte l'indagine, dall'altra la presunta o vera truffatrice medium, e in incognito, appollaiato lì, l'amore, come sempre capita nei film di Woody Allen. Vedo una casa bianca a Belgravia, 14... no, 16, Wilton Crescent. Sì, è tutto corretto e stupefacente, ma non me la bevo, perché sono un uomo razionale che crede in un mondo razionale e ogni altra cosa è illusione. Lei sarebbe più felice se io fossi una truffatrice, perché così tutto il suo solido mondo non verrebbe sconvolto. No, è proprio il contrario. Se sapesse quanto io non vorrei che lei fosse falsa. Ma lo sa quanto sarebbe imbarazzante per lei? Come sempre nella colonna sonora dei film di Woody Allen, tanto jazz di quegli anni 20 e 30, la storia è questa, gli attori sono questi, è un film dove non succede molto altro, un film nel quale la presenza dei due protagonisti, appunto Colin Firth e Emma Stone, è catalizzante in ogni momento praticamente. È un film anche molto molto parlato, molto scritto, qualcuno ha detto un film molto fresco, ma non basta essere sulla Costa Azzurra e raccontare di una Belle Époque fatta di vestiti leggeri e di vento e pioggia e di mare per essere leggeri. Bisogna lavorare molto sul copione, su quello che si inserisce, su quello che si sottrae. Ecco, questo è un film di un Woody Allen che aggiunge molto e, a mio modo di vedere, soprattutto la prestazione di Colin Firth risulta un po' verbosa, un po' ridondante per il numero di battute, per il tono con il quale vengono porte. Allora, è sicuramente un film godibile per il tenore della scrittura che cerca la battuta, ma a mio modo di vedere, rispetto a certi film anche recenti di Woody Allen, gli manca quel pizzico di spontaneità che ha fatto per esempio la fortuna di un Midnight in Paris, tanto per dirle uno. Tra l'altro, negli ultimi tempi Woody Allen sembra quasi alternare un film con il guizzo, il graffio di un tempo, come è stato per esempio appunto Midnight in Paris, pensate da Whatever Works in poi, dal 2009, Whatever Works a mio modo di vedere molto bello, Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni così così, Midnight in Paris una cannonata, To Run With Love da dimenticare, Blue Jasmine ancora un film bellissimo, qui ancora una volta ci sediamo, sembra quasi che Woody Allen non tenga il ritmo dei film, di un film all'anno, anzi spesso anche di più di un film all'anno, perché ne abbiamo citati sei nel corso degli ultimi 5 anni. Ecco, in questo caso Magic and the Mullet non è proprio un film, diciamo così, noioso o particolarmente pesante, ma è un film che non riesce a regalare quello spirito tipicamente alleniano che in altri momenti invece il regista newyorkese ci ha regalato. Magic and the Moonlight è comunque il film della settimana, assolutamente in sala in questo weekend. Noi adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade e fra poco parliamo di un regista che si sta davvero affermando come una delle rivelazioni degli ultimi anni, Xavier Dolan, con il suo nuovo Mommy. La rosa purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, eccoci qua, abbiamo annunciato in questa seconda parte il film di un vero e proprio astro nascente della cinematografia d'autore, innovativa, che cerca di lavorare sul linguaggio filmico, sui formati addirittura, a livello internazionale. Stiamo parlando di Xavier Dolan, arrivato al suo quinto film, anche se la sua vera e propria esplosione si è avuta nel 2013 con Thomas La Ferme, un film che ha davvero incantato la platea della Mostra del Cinema di Venezia, e che torna appunto con il suo nuovo Mommy. Questa volta il festival prescelto è stato Cannes, per raccontare ancora una volta una storia di sofferenza nell'amore, di sessualità negate o affermate, in questo senso con la storia di una madre single, Diane, una donna ancora piacente ma davvero dissipatrice della propria vita e del suo rapporto con suo figlio, che è un pochino come lei e ha anche forse dei profili patologici piuttosto interessanti. Sentiamo la clip. Ti giuro, non ce la facevo più con tutti quei dementi lì al centro. Oh, dammene una. Io fumo, lo sai. Bravo, è ora di smettere. Smetto anch'io al mio compleanno. Vaffanculo. Non ci siamo, Steve, stammi bene a sentire. Ora stabiliamo le regole della casa. Se vuoi restare con tua madre e non avere guai, mi devi dare una mano. E quindi cominciamo con il rispetto reciproco. Niente più vaffanculo, capito? Non lo voglio più sentire. Vaffa, ok. Che cosa ti ho appena detto? E dove abitiamo ora? Al Saint-Hubert, sulla 116. Avete sentito, rapporto piuttosto intenso. In collegamento Boris Sollazzo, che saluto. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, il cinema di Xavier Dolan è un cinema che racconta molto la violenza della vita, cioè la violenza che la vita porta sui suoi protagonisti, non quella delle periferie o appunto di una violenza fisica, ma spesso di un dolore interno che nasce dall'accettazione o dalla non accettazione di quello che si è o di quello che si vorrebbe diventare. E ancora una volta in scena c'è questo rapporto che Dolan riesce a raccontare in maniera molto ancestrale fra madre e figlio. Sì, assolutamente, la violenza dei sentimenti, direi. Lui è uno che è cresciuto, non come i suoi colleghi, anche per la giovane età, non con il cinema d'autore, ma col cinema d'azione, con un cinema commerciale, pop. È stato molto divertente sentirlo a Cannes negare legami con Truffaut e magari ammetterli con registi che a Cannes inviterebbero raramente, anche se devo dire che con Frémont sono cadute molte barriere. E Dolan riesce davvero a metterti con le spalle al muro. Questo perché? Perché sa anche essere molto furbo, sia nella messa in scena, sia nel racconto di questi sentimenti, ma quella furbizia è una furbizia sincera, è la furbizia di un 25enne che ha già fatto 5 film, è una furbizia di chi utilizza il cinema, di chi porta al cinema anche quella freschezza e quella spregiudicatezza che probabilmente altri esordienti più vecchi non riuscirebbero a fare. Io non voglio fare, come dire, paragoni sbagliati, ma a me ricorda il primo Bertolucci, proprio per il modo diretto, violento, un po' cattivo, ma anche molto dolce che aveva di portare in scena determinate vicende. Mommy non è il suo miglior film, ma forse è il film che ne segna la maturità. Qui Xavier Dolan comincia a non avere più quelle slabbrature, quegli arzigogoli che cerca un ragazzo della sua età per mostrare a tutti quanto è bravo. Qui decide di fare un film vero, anche con i suoi difetti, e secondo me ci riesce perché anche il rapporto edipico profondamente morboso che c'è tra questa madre e questo figlio diventa qualcosa di più equilibrato, in cui non si sa chi è il genitore di chi, in cui un rapporto che sembra più di fratellanza a un certo punto matura violentemente, poi cade anche con la stessa violenza, e a mio parere siamo molto vicini alla visione di uno dei cineasti che diventerà tra i più importanti dei prossimi anni. Ne potremmo parlare forse anche come di un Coppola europeo in futuro. Ancora non abbiamo visto il suo capolavoro, ma credo che non manca molto, e comunque Mommy a mio parere rimane la cosa più interessante di questa settimana, e quindi ve lo consiglio caldamente. Guarda, mi hai proprio letto nel pensiero per quanto riguarda la similitudine, diciamo. Guarda, Bertolucci, quando a Venezia l'anno scorso stavo guardando proprio Tom alla Ferme, la prima immagine che mi è venuta in mente è stata quella dei primi film di Bernardo Bertolucci, e devo dire è stato accostato magari invece ad autori successivi, anche meno importanti, come può essere un Greg Araki. In certe vene possiamo vederci qualcosa anche di Gus Van Sant, però sicuramente è impressionante quello che questo ragazzo, ricordo che è del 1989, cioè stiamo parlando di un ragazzo che ha 25 anni, è riuscito a fare in 5 film, tra l'altro già da regista, e sicuramente è una cinematografia che meriterebbe ma assai assai di più popolarità, visibilità, perché è un regista assolutamente da seguire. Mommy è al cinema, noi a questo punto invece ci spostiamo nel passato, perché dobbiamo farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito, ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. E allora, l'abbiamo tenuta un po' più lunga del solito, perché chiaramente riguarda amici ascoltatori che hanno qualche anno in più e quindi se la possono ricordare direttamente, forse i più giovani no, però è un film, oltre che un capolavoro, è un film che ha segnato un genere proprio del grande cinema italiano. La Rosa Purpurea @radio24.it, scriveteci il titolo del film, scriveteci il vostro indirizzo, provate a vincere una delle copie di questo film che la settimana prossima sveleremo. Allora, se ci sono all'ascolto fan, soprattutto immagino femminili, di Robert Pattinson, è il loro momento, perché arriva nelle sale italiane The Rover, film appunto diretto da David Michaud, ma con il cast Robert Pattinson protagonista assoluto, Guy Pearce e tanti tanti altri. Sentiamo la clip e poi ne parliamo. Dimmi, dov'è tuo fratello? È andato a sud, lontano da qui. Ti porto io da lui, promesso. Tuo fratello ti ha lasciato lì a morire. Ti ha abbandonato e io ti ho raccolto. Se non impari a lottare, ti troverai la morte in faccia. Non succede niente, anche se Dio mi vede. Dio non si preoccupa di te. L'unica cosa che conta in questo momento è che io sono qui. E lui non c'è. E allora, siamo in una Australia del futuro prossimo venturo, con un mondo, diciamo così, al crollo dell'economia, al degrado sociale ed economico, e in questo appunto si incontrano le strade di Eric, ex contadino vagabondo, e appunto in viaggio durante una sosta per mangiare, l'incontro con una serie di personaggi che circondano questa sorta di road movie del futuro. Boris, anche alla luce di questo The Rover, a che punto è, giusto per mettere una bandierina, la carriera di Robert Pattinson? È un buon punto, devo dire, perché ha dimostrato finalmente e definitivamente, a mio parere, che è un attore vero. È un attore vero, tra l'altro, anche con la giusta umiltà, cioè con la capacità di sporcare quel viso che era difficile da sporcare, anche per il pallore a cui l'aveva costretto, anche per la grande identificazione col personaggio di Twilight che aveva subito a un certo punto, insomma, la sindrome Daniel Radcliffe anche per lui era dietro l'angolo. Lui è riuscito abbastanza in fretta a liberarsene mettendosi alla prova in film faticosi, oltre che buoni, e soprattutto con ruoli adatti a lui. È stato anche capace di non andare in cerca di capolavori, ma di ruoli che gli togliessero di dosso quell'etichetta. The Rover è proprio uno di questi, anzi, addirittura lui va a recitare per Michaud, che aveva fatto Animal Kingdom, che sicuramente era e sarà uno dei capisaldi del suo genere per anni e anni. Michaud qua è sicuramente in una forma decisamente meno smagliante rispetto a quel cult felicissimo, tanto che il film, che è un road movie interessante, che ha delle idee molto intelligenti, e soprattutto nella parte intermedia, quella diciamo dell'inseguimento dei ladri che fanno esplodere la rabbia del protagonista, che invece sembrava rassegnato a quella Australia post-apocalittica e anche diciamo alla sua mediocrità. A un certo punto il film proprio si poggia su quelle che pensavamo essere fragili spalle, ovvero quelle di Robert Pattinson, che invece con la sua faccia, con la sua recitazione, col suo impegno e anche con quella rabbia repressa che forse avevamo solo intuito in Twilight, si mostra un interprete finalmente maturo. Sono davvero molto curioso adesso di vedere che cosa succederà. Quindi The Rover forse è un film non del tutto riuscito, e che è sicuramente un passo indietro per il suo regista, ma è un grande passo avanti invece per Robert Pattinson. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora insieme, La rosa purpurea. Dicevamo Scemo e più Scemo 2, ritorna questo film che era stato, come dire, un grandissimo successo negli anni 90, ritorna dopo tanto tanto tempo, e quindi è una sorta di revival, più che altro, più che un sequel, quello fra Jim Carrey e Jeff Daniels. 20 anni dopo, i due protagonisti, i due personaggi, Lloyd Christmas e Harry Dunn, si ritrovano, ne combineranno ancora di ogni. Andiamo a sentire la clip. È una cartolina di Freda Felcher. Harry, sono incinta, ti prego chiamami. Ma di che vorrà parlare? Lloyd, sarò padre! Guarda il timbro, 1991. Ho avuto una figlia, l'ho data in adozione. Andiamo a cercarla noi? Perché sei dentro al water? Per non farti vedere i piedi. Perché non sei sulla tavoletta? La tavoletta è piena di peletti di palle, non sono mica scemo. Ti sembriamo due coglioni. Ehi, che cavolo! Boris, i fratelli Farrelly sono stati dei geniali, irriverenti e anche molto molto riusciti a livello di botteghino registi negli anni passati, e quel Scemo e più Scemo era stato un po' una rivelazione in una comicità demenziale dell'epoca. Questo Scemo e più Scemo 2 forse ci racconta che Il loro cinema è virato verso una sorta di cinepanettone all'americana. Bravissimo, bravissimo. Loro hanno avuto la capacità, grazie a un talento secondo me brillantissimo, di portare la demenzialità al rango di un genere nobile, diciamo che se si esclude l'epopea paetoniana, che mai si può definire demenziale, ma che aveva in sé quei germi, quei semi, la demenzialità era sempre stata di serie B. Con i Farrelly si è riuscito a farlo diventare un genere commerciale, ma soprattutto un genere anche nobile per quanto riguarda gli autori, proprio perché loro avevano insegnato a tutti che la struttura del narrativa, la costruzione del film, di un film demenziale, forse persino più importante, e che quindi non era un film più facile ma più difficile. E qui invece ci si ritrova di fronte a un film che un po' lascia stupiti, perché sì, certo, si ride, e sì, certo, anche qui c'è una struttura narrativa non particolarmente banale, anzi con degli spunti melodrammatici, però ci sono due grossi problemi. Uno è quello che dici tu, una certa banalizzazione della comicità, per cui sembra piuttosto che stare di fronte alla forza anche dirompente del primo scemo e più scemo, sembra di stare di fronte a un cinepanettone all'americana. E due, che Daniels e Carey, che non sono più due giovani virgulti, ti danno un po' l'impressione delle comiche con Pozzetto e Villaggio, cioè di gag anche efficaci affidate a chi forse non se le può più permettere, e questo doppio mix rende questo un film anacronistico e nostalgico, nostalgico anche perché è abbastanza difficile vedere Scemo più Scemo 2 senza aver visto il primo, visto i tanti riferimenti che si fanno. Insomma, i Farrelly mi sembra che si vogliano specchiare, ma si siano trovati di fronte un vetro deformante, e questo non fa bene né a loro né a noi. E insomma, questo allora il giudizio sul film dei fratelli Farrelly, Scemo più Scemo 2, che comunque siamo certi di trovare lunedì prossimo abbastanza in alto, non so se proprio tanto in vetta, ma abbastanza in alto nelle classifiche, lo ricordo, fino a questo momento dominate, ma l'avevamo già detto settimana scorsa che l'avvio era stato forte, dalla buona partenza dei Pinguini di Madagascar con 3 milioni e mezzo di euro nello scorso weekend. Tiene botta Hunger Games, Il canto della rivolta, che arriva a oltre 7 milioni di incasso globale. Al terzo posto, Scusate se esisto, la commedia con Raul Bova e Paola Cortellesi, che arriva a quasi 3 milioni e mezzo e supera, sebbene fosse già in programmazione, Ogni maledetto Natale, che invece parte con 819 mila euro. Da segnalare ancora nelle altre parti della classifica, Interstellar, che veleggia verso i 10 milioni di incasso globale, e soprattutto il fatto che Il giovane favoloso, che è ancora 14esimo in classifica, abbia raggiunto i 6 milioni. Per il film di Mario Martone, davvero un grandissimo successo. Boris, io ti saluto, ti ringrazio e ti aspetto la settimana prossima qui con noi alla Rosa Purpurea. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora andiamo ancora a giocare insieme, prima di sentire l'intervista con Serena Autieri, protagonista di Ambo, altro film che esce in questo fine settimana. Dicevo, giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Togliete la parola anche al vostro assessore, tanto avete le mani sporche. E allora, si parla ancora di politica, avete sentito, assessori, si parla di mani, mani, attenzione perché è una parola molto importante. La Rosa Purpurea @radio24.it, diteci di che film si tratta, scriveteci il vostro indirizzo, provate a vincere una delle due copie un video di questo film che la prossima settimana sveleremo. Adesso parliamo invece di Ambo, il film che vi ho appena annunciato, una commedia italiana diretta da Pierluigi Di Lallo, con un cast che vede come protagonisti principali Serena Autieri, Adriano Giannini e nel cast anche Maurizio Mattioli. Sentiamo la clip. Amore, sei stata bravissima. Ma dobbiamo ringraziare la cantina che sono stati lì. Ci aspettavamo Nando. Bevevamo acqua di fonte. Ecco. Che è sta battuta? Ma sempre sei battute, fa. Sempre spiritosa. E poi ne vedi sta giacca, sta fascia, mettiti libero. Questo è di rappresentanza. Ma che mi rappresenti? Ma che stai a dire? Andiamo, ragazzo, forza, fai vedere bene tutto, su. Ecco, guarda. Ah, beh, non è che ci farà indigestione questo, no? Ma che volevate? Il pranzo di matrimonio? Si era detto uno snacchino e snacchino sarà. E allora, un momento felice di questo film, la coppia che è ambientato ad Atessa, la coppia appunto composta da Giulio e Veronica e dal piccolo Marzio, una famiglia Felice che cerca un secondo figlio, un altro figlio che però non arriva, ci si pone, come sempre capita in questi casi, una serie di interrogativi, una serie di esami, e a un certo punto però qualche dubbio comincia a insinuarsi, quasi con delle tinte gialle, in Giulio, cioè comincia a dubitare che anche Marzio sia veramente suo figlio, perché se il tema e il portatore della sterilità è lui, dice, perché ho avuto un figlio, e allora questo dubbio non lo esplicita, cambia improvvisamente umore, sembra quasi un'altra persona. Veronica non riesce bene a capire che cosa possa succedere, e si apre ovviamente una crisi che andrà ricucita. Questo è il tema portante di questo Ambo, che ha l'ambizione di voler essere commedia popolare, Maurizio Mattioli che regala sempre qualche momento di buon umore, ma anche di ragionare su un tema molto delicato, appunto, come quello della sterilità, e ai noi molto presente anche nella nostra società. E allora noi siamo andati proprio da Serena Utieri, che oltretutto è un'attrice, un'artista davvero completa, appunto, come sapete, oltre che attrice, straordinaria cantante, e le abbiamo chiesto un po', appunto, come si è inserita in questo personaggio, come questo film cerchi di inserirsi in un tema così delicato come quello della sterilità. È una commedia sentimentale, dove, insomma, racconta la storia di questa famiglia, di questa coppia con questo bambino Marzio. Nel film siamo io e Adriano Giannini i protagonisti, e che, insomma, affrontano un argomento molto importante, che è la sterilità. È una famiglia della provincia, una famiglia media, che però crede molto nell'amore, nei buoni sentimenti e nella famiglia, e quindi cercano questa continuità affrontando un grande problema. È una commedia garbata, questo ci tengo a precisarlo, quindi si ride in modo garbato, e poi c'è Mattioli che comunque la risata te la porta sempre a casa, però si affrontano tematiche importanti, quindi si esce dal cinema con un messaggio, ti lascia qualcosa, ti fa riflettere. Il tuo personaggio nello specifico di questo film, raccontacelo un po' di più, che ruolo ha? Allora, Veronica è una donna che crede molto nella famiglia, è una donna in carriera, comunque un'enologa, però è molto impegnata nel portare avanti anche la sua famiglia, la sua di famiglia, quindi di volere un altro figlio, è innamorata di suo marito, molto innamorata, e quindi a volte anche con un po' di freddezza, sembrerebbe, con un po' di distacco, cerca di, insomma, di portare avanti questa famiglia sana nel modo migliore, ma si scopre poi che questa donna tutto ha fuorché freddezza, fuorché appunto distacco, ma nasce soltanto da questa grande responsabilità che gli è stata data da bambina, perché ha dovuto crescere sua sorella, perché sono rimaste senza genitori da piccole, quindi lei si è trovata questa grande responsabilità. Il tema di fondo, dicevi, quello della sterilità in una società che fa pochi figli, che tipo di ostacolo rappresenta oggi questo per la prospettiva, per l'orizzonte? Cioè, tendiamo forse come coppia a fare sempre figli sempre più tardi e poi a renderci conto che non possiamo farli. Esatto, sì, principalmente quello forse è il problema molto più frequente nelle donne, no? Perché ovviamente, perché le donne sono tanto impegnate sul lavoro, però in questo caso si ribalta anche dalla parte maschile, quindi sì, ci si incontra tardi, non ci si ha voglia di credere in un progetto insieme, o una minima problematica ci si lascia facilmente, non si crede nella progettualità e nel sacrificio, anche perché una vita insieme, una famiglia, i figli comportano sacrificio, poi l'orologio biologico scatta e quindi ti rendi conto che non hai più tempo. Bisogna invece ribaltare questa cosa e rendersi conto che i figli, io adesso ho una figlia, una bimba di 16 mesi, e mi ha aperto un mondo, fortifica ancora di più la coppia, ti rende una gioia e una prospettiva, ti apre la vita, ti apre il cuore, anche quando, insomma, ci sono problemi, in qualunque momento della vita ti rendi conto che c'è qualcosa per cui vale la pena combattere e andare avanti, quindi veramente non bisogna farne uno, bisogna farne tre. Ti chiedo un'altra cosa, hai detto della commedia garbata, e mi sembra che ci sia forse anche bene, diciamo, uno scivolamento negli ultimi anni della commedia dal greve al garbato. Tu come spettatrice come ti rapporti a questo genere, diciamo? Beh, io credo che la commedia ha un grandissimo ruolo al cinema. La commedia è vista da tutti, no? Ovviamente dal popolo, dai giovani, meno giovani, ma affrontiamo quello dei giovani, dei ragazzini, dei bambini. Io mi ritrovo i miei nipoti che hanno 7 anni, 12 anni, 15 anni, che vanno a vedere la commedia, no? Perché è la cosa che fa divertire, la più leggera, che possono arrivare a capire tutti. Ed è una cosa importante poter far arrivare a questi ragazzi dei messaggi puliti, positivi, far ridere sì, ma con pulizia, con garbo, regalando dei messaggi, fa parte proprio dell'educazione di un bambino, no? Fargli vedere delle cose sane, e quindi abbiamo un compito troppo importante, non possiamo non pensare che i nostri figli vanno a vedere questi film e fargli vedere cose belle. E allora Serena Utieri alla Rosa Purpurea per parlarci di Ambo, ma come avete sentito anche di tante altre tematiche. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, quarta parte della Rosa Purpurea, fra poco tutto il cinema da vedere in casa, prima però vi mandiamo a teatro, perché se per caso doveste tradire il cinema, c'è comunque un personaggio che ha dato tanto al cinema, e proprio per questo lo abbiamo invitato a teatro a Milano all'Elfo fino a domenica 7, spettacolo pomeridiano alle 16.30 per la domenica, e invece il sabato alle 20.30 con una pièce che si chiama La leggenda del grande inquisitore, tratta dai fratelli Karamazov di Dostoevsky. Fratelli Karamazov in Italia significa Umberto Orsini, e di lui stiamo parlando e con lui abbiamo parlato in un'intervista che ha spaziato, certo, sulle questioni teatrali, ma anche su tanto, tanto cinema, tanti aneddoti, e che non ci sta tutta in questa puntata. Allora, cominciamo a sentire come nasce, da Umberto Orsini, l'idea di questa pièce che porta in scena al Teatro dell'Elfo un pezzo dei Karamazov, quello appunto del Grande Inquisitore, che fu anche, tra l'altro, l'oggetto di una intera puntata del mitico sceneggiato degli anni 70. Perché la domanda che più insistentemente l'uomo si pone sulla terra è, e tu lo sai, molto semplice. Ditemi a chi cenoflettermi. Possiamo chiamarlo il ritorno dei fratelli Karamazov, l'ennesimo ritorno nella vita di Orsini, perché vi ha dato tanta popolarità e adesso è un'altra angolatura, un altro punto di vista, no? Sì, c'entra con i Karamazov, in quanto c'è la leggenda del grande inquisitore, che è il presunto romanzo che Ivan raccontava ad Alyosha in un punto molto importante del romanzo e anche dello sceneggiato. Era oggetto di una intera puntata ed è un pezzo che è stato visto da milioni e milioni di persone ed è entrato un pochettino nell'immaginario collettivo. Io sono tornato dopo tanti anni, 40 anni circa, a questo tema, non tanto per fare la vicenda dei fratelli Karamazov, perché sarebbe grottesco e palcoscenico farlo in un tempo così compresso come quello di uno spettacolo teatrale, ma per riproporre questo tema del grande inquisitore, che è un tema molto disturbante oggi e quanto mai veritiero, perché il grande inquisitore che vede Cristo nel romanzo, naturalmente mai scritto da Ivan, a fare dei miracoli nella Siviglia del 600, lo fa imprigionare, va in cella e gli dice sostanzialmente perché sei venuto a disturbare il nostro lavoro. Noi stiamo rendendo felici gli uomini in quanto gli abbiamo tolto la libertà. Gli uomini non sanno usare la loro libertà, hanno affidato a noi il compito di gestirla, perché l'uomo in realtà è incapace di essere solo, ha bisogno di associarsi, ha bisogno di sentirsi confortevolmente in un formicaio di gente, e oggi lo possiamo leggere in chiave moderna come la rete, come internet, come i partiti, come la Chiesa, come chi ha affidato ad altri la gestione della propria libertà. Se oggi Cristo scendesse veramente sulla terra, cosa io non sono credente, improbabile, ma comunque voglio dire sarebbe accolto da ostilità, perché in realtà ci sono tanti piccoli inquisitori che si sono assunti il compito di guidare gli uomini nelle idee, nelle ideologie, in tutto, insomma. E allora, Umberto Orsini alla Rosa Purpurea, al Teatro dell'Elfo a Milano, ancora per questa sera alle 20.30 e domani pomeriggio, domenica pomeriggio alle 16.30 con La Leggenda del Grande Inquisitore. Ma come vi dicevo, l'intervista è andata avanti e nelle prossime settimane seguiteci perché ve la faremo ascoltare. Si è parlato di Fellini, Visconti, Sotei, i grandi registi con cui Orsini ha lavorato, ma anche delle sue partecipazioni a Hollywood, di un diverbio quasi, diciamo, non diverbio, ma insomma di un momento interessante con Charles Bronson e della saga erotica di Emmanuel, che lo ha visto anche protagonista. Nelle prossime settimane qui alla Rosa Purpurea. Noi adesso andiamo avanti però perché dobbiamo parlare del cinema da vedere in casa, in televisione o con l'on video, cominciando con il risolvere il gioco della scorsa settimana. Tommy, lui è Bob Gaudio, quello di cui ti parlavo. Tommy DeVito, Bob, dirigo il gruppo. In giro a quest'ora, eh? Beh, gli stavo dicendo che voi, insomma, state cercando... Vabbè, Joey, non ti eccitare troppo, eh? Sì, scusa. E allora, si trattava di Jersey Boys, il musical anomalo per quanto concerne il regista, che era appunto Clint Eastwood, insomma, che si è cimentato con questo genere, che arriva dritto dritto da Broadway con un grande successo. Jersey Boys, appunto, la vera storia dei Four Seasons e soprattutto del loro cantante che è diventato un mito in America, Frankie Valli. Qua noi li abbiamo conosciuto alla fine degli anni 70 quando scrisse la canzone guida della colonna sonora di Grease. Forse lo ricorderete anche voi. Allora, Jersey Boys in Blu-ray va a Raffaele Palmieri di Bologna e Chiara Amelli di Saronno. Sono loro i due ascoltatori che per primi hanno indovinato il film, che ci facciamo raccontare nella sua edizione on video da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori, bentornati. Sì, Jersey Boys, come dicevi, appunto, la storia di quattro ragazzi che provengono dalla parte sbagliata del New Jersey e si uniscono per formare un gruppo icona, i Four Seasons. E appunto, nonostante gli anni passino e ormai Clint Eastwood ci abbia già regalato da tempo una sorta di film testamento come Gran Torino, l'uomo dagli occhi di ghiaccio non smette assolutamente di mettersi alla prova e qui porta al cinema un musical di successo di Broadway, ricordandoci che cos'è il cinema classico. Blu-ray con un video che riporta fedelmente l'apparenza retro del film, un audio da gustarsi veramente con l'home theater per quanto è ben spazializzato ed extra purtroppo solo d'ordinanza. Dietro le quinte un approfondimento sulla carriera di un attore, un focus sulla preparazione di una coreografia. E allora Jersey Boys di Clint Eastwood, il nostro game della scorsa settimana in on video, così come una monumentale Kubrick Collection, Giulio. Sì, questa è la tipica strenna natalizia per cinefili che raccoglie in 10 dischi Blu-ray 9 film di Stanley Kubrick, regista che ovviamente non ha bisogno di presentazioni. All'appello mancano però i primi 4 film, quindi Fear and Desire, Il bacio dell'assassino, Rapina a mano armata e Orizzonti di gloria, ma si presentano 2 documentari, Stanley Kubrick e Life in Pictures e uno sulla carriera del protagonista di Arancia Meccanica, il mitico Malcolm McDowell. E poi ci sono veramente ore e ore di contenuti extra, interviste d'epoca, backstage, analisi e poi una piccola chicca cartacea ad accompagnare che è un libretto di 40 pagine con fotografie, note di produzione e aneddoti sulla realizzazione dei film. E allora, questo è la Kubrick Collection per quanto riguarda l'on video, ma catapultiamoci nei palinsesti televisivi. Abbiamo parlato prima, abbiamo sfiorato il tema Fellini con l'intervista a Umberto Orsini e allora Federico Fellini torna domenica 7 dicembre in TV con E la nave va. Sì, su Rai 3 alle 3.30 di notte, quindi su fuori orario, siamo nel luglio 1914, un transatlantico, la Gloria N, salpa da Napoli, ricolmo di gente con l'obiettivo di spargere le ceneri di una celebre cantante soprano nell'Egeo. Fellini racconta una storia falsissima, umoristica e tragica di fantasmi allo scoccare della Prima Guerra Mondiale, una storia vista con la lente malinconica e grottesca che contraddistingue tutto il suo cinema, un film che è veramente una sorta di ronda funebre e divertita in cui irrompe la storia vera, scritto con Tonino Guerra e considerato a torto, da mio avviso, un non tra i maggiori di Fellini. E comunque vale la pena almeno registrarlo di notte, guardarlo, Rai 3, 3.30 di notte, domenica 7 dicembre, E la nave va di Fellini. E invece per stare a tempi più recenti, un film che è sempre bello vedere, The Queen di Stephen Frears. Sì, martedì 9 dicembre, The Queen, la regina di Stephen Frears, su Rai 5 alle 21.15. Alla morte della principessa Diana, la regina Elisabetta e il primo ministro Tony Blair cercano insieme un compromesso tra quella che è una tragedia privata e la richiesta di un paese di condividere il lutto con i reali. È una satira affettuosa ma decisamente impietosa quella che fa Frears, che non è certo un regista succube del potere, e che qui ci regala una sorta di sitcom elegante in cui la regina, circondata da un marito arrogante, una sorta di un figlio confuso e un primo ministro a rivista con moglie rampante, finisce per rappresentare qualche resta dell'Inghilterra in termini di dignità, riservatezza e autorevolezza, e anche da un punto di vista di radici profonde. Veramente dalla Coppa Volpi al Golden Globe all'Oscar, Ellen Mirren ha vinto di tutto e l'ha vinto meritatamente nei panni della protagonista. E allora una straordinaria prova d'attrice, martedì 9 dicembre alle 21.15, The Queen su Rai 5. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. Siamo arrivati alla fine della Rosa Purpurea, non mi resta che il tempo di ringraziare Silvio Caletti in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, e darvi appuntamento a sabato prossimo, come sempre alle 18, qui su Radio 24 con l'ora di cinema della Rosa Purpurea.